Tommaso Ragno ha letto I 10 giorni che sconvolsero il mondo di John Reed, traduzione di Barbara Gambaccini. A cura di Anna Antonelli, Fabiana Carobolante, Lorenzo Pavolini e Chiara Valerio. Regia di Jonathan Zenti. Per scaricare e riascoltare il programma, radio3.rai.it.